Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Nei casolari si faceva un gran discorrere di quest'uomo che parlava come un messia. Invano prete Porco, che aveva l'animo gonfio di livore, diceva che questo maestrucolo era falso come l'arciprete, che è tutto dire. Gli animi si andavano esaltando e già quando all'imbrunire con l'aria rinfrescata Don Ricciotti arrivava, veniva accolto da torme di ragazzi scalzi che lo accompagnavano fino al sagrato delle grazie, dove ormai predicava alle turbe. Anche zio Poddansu, che aveva il suo abituro a Seuna, sebbene la sua esistenza si svolgesse a Locoi, era rimasto pensoso una volta che l'aveva sentito, e tra il mareggiare delle viti che egli aveva piantato con le sue mani faceva qualche ragionamento. Decise di chiedere a Don Sebastiano la prima volta che fosse venuto, poiché egli ora era impegnato ad arginare il torrente di Sporosile. Quando venne, Don Sebastiano gli disse: «Compare, per il vincolo santo che c'è tra di noi, io vi dico che questo Ricciotti Bellisai è un'immondezza». Zio Poddansu accettò la definizione e non ci pensò più. Ma non era che uno solo, e non soltanto tra quelli di Seuna, ormai, ma anche quelli di San Pietro e anche di Santa Maria, perché la fama si spargeva a tal punto che qualche possidente informò la polizia, che mandò un delegato a fare una passeggiata tra i macini di Seuna, ma non trovò nulla di irregolare. Don Ricciotti seguiva col suo termometro infallibile il crescere della speranza nei suoi ascoltatori. Non aveva niente da offrire, ma non c'era bisogno che offrisse nulla. Egli aveva scatenato la loro fantasia e questo bastava per il momento. Per indirizzarli verso il suo fine, e cioè abituarli all'idea dell'ingiustizia privata, l'ingiustizia di Don Sebastiano che usurpava la sua casa di Loreneddu, pensò che la via più facile e la meno pericolosa era quella di passare per la cosa pubblica. Cosa pubblica e cosa di nessuno sono la stessa cosa. E Nuoro, la città che era anche la loro, possedeva immensi salti che quei furbi di San Pietro affittavano per pochi soldi, come possedeva la sconfinata pianura del Prato, dove pascolavano le pecore di pochi privilegiati, ma che nelle loro mani avrebbe dato montagne di grano. Perché Nuoro, cioè il sindaco e gli assessori, dovevano tenersi tutti quei beni che erano di Dio e quindi dei poveri? Può darsi che in diritto il ragionamento fosse un po' troppo semplice, ma il diritto era un'invenzione dei ricchi. L'idea che egli lanciava, sia pure sommessamente, perché non voleva cacciarsi dei guai, non era del resto nuova. Molti anni prima, chissà quando, a Orune avevano ripartito tra le famiglie l'immenso altopiano de Sa Serra e a Nuoro stessa il monte era di proprietà del comune ed era stato diviso. Vero è che il risultato fu che i poveri non ebbero niente e i ricchi diventarono più ricchi, tanto che il monte, con le sue querce enormi e le fontane cristalline, era oggi retaggio dei Corrales e ai poveri non restò che sfogarsi, a Nuoro e a Orune, appiccando qua e là qualche fuoco. A Orune, anzi, dove sono più selvaggi, quando s'accorsero della beffa, uscirono per la strada urlando «A su con Nottu, al conosciuto», volendo distruggere quel che ormai era diritto, cioè indistruttibile. L'atto di audacia, che finì a moschettate coi carabinieri, diede per sempre il nome a quell'anno, «Sannu e su con Nottu», ma le tanche restarono a chi aveva saputo prendersele. Allora però non c'era lui, Don Ricciotti, e oggi, se si arrivava alla ripartizione, le cose si sarebbero fatte bene e ogni seonese avrebbe arato il suo pezzo di terra, avrebbe arato sul suo. Fu in mezzo a questi discorsi che egli lanciò l'idea di fare un'associazione che avrebbe dato corpo alle loro volontà, le avrebbe indirizzate verso il fine comune, con lui Don Ricciotti a capo, ma fratello e guida. Alle prossime elezioni, ma questo non lo disse, l'associazione si sarebbe automaticamente trasformata in partito. L'indomani mandò Dionisi, il banditore, perché col suo tamburo, durdum, durdum, durdum, annunciasse per tutta Seona, ma anche a San Pietro e a Santa Maria, che chi volesse iscriversi all'associazione di Don Ricciotti venisse a mettere la sua firma o il suo segno di croce la domenica successiva nel magazzino sotto la sua casa. Non c'era da pagare niente. Il tamburo di Dionisi gettò nella costernazione i nuoresi. Nella vecchia scuola del convento, maestro Mossa e maestro Fadda si chiesero se era consentito a un maestro elementare mettersi in piazza in questo modo, dando un cattivo esempio ai bambini. Ma nelle case dei nobili e dei borghesi si tremò, pensando che nulla di buono poteva venir fuori da quello scioperato degno figlio di suo padre. La sera, Don Pasqualino, Don Gabriele, Don Sebastiano e tutti gli altri scesero prima dell'ora in farmacia per consultarsi. Era chiaro che quel riottoso voleva mettere il paese a soqquadro. Ma perché? Ciascuno si sentiva aggredito e Don Sebastiano pensava, senza però manifestarlo, che quell'avanzo di galera tesseva qualche trama per Loreneddu. Al caffè maestro Manca trovò un nomignolo per il suo collega, il re inquieto, che fece subito fortuna. Ma Boelle e Bartolino e gli altri giocatori gli davano semplicemente del buffone, peggio di Fileddu. Giovanni Maria Musiu, che pensava nel profondo del cuore a Isporosile, sebbene su quel baratto alle carte del padre Don Ricciotti non avesse mai avanzato delle pretese, diceva che non lo avrebbe più lasciato sedere al caffè, tanto più che non consumava mai nulla. Del resto, in ciò erano tutti unanimi. Questa associazione, qualcuno aggiungeva a delinquere, sarebbe stata un fuoco di paglia che non sarebbe durato più di 3 giorni. I soli che guardassero sornionamente gli agitati nuoresi erano quei giovinastri che gracchiavano ai preti e aspettavano di vedere come spirava il vento per inserirsi nel gioco. A Seona, intanto, nella casetta delle sorelle Perra, la sola che avesse 2 stanze, una sopra l'altra e il balcone in mezzo fiorito, si preparava la grande sorpresa. La domenica, quando i seonesi sarebbero andati a iscriversi, avrebbero consegnato a Don Ricciotti il labaro dell'associazione. Avevano raggranellato qualche soldo e avevano comprato la stoffa tricolore e adesso vegliavano per ricamare a grandi lettere d'oro il motto che Prete Porcu, vincendo la ripugnanza per Don Ricciotti, aveva trovato in un libro di scuola: «Ascendi il monte mirando il tuo sole». Le lettere si affiancavano l'una all'altra con grande rapidità perché le vicine si avvicendavano nel lavoro e il sabato sera l'opera fu pronta. La grande primavera di Nuoro stava per cominciare. Le campane suonavano a stormo quella domenica perché era, ma si trattava di una pura combinazione, il giorno della Pentecoste. Il caffè era già pieno al mattino. Don Ricciotti aveva messo un tavolo nel suo magazzino con un registro e una matita e sedeva in attesa, pieno di buon umore. I seonesi sarebbero venuti uno per uno e avrebbero riempito il libro dei loro segni di croce perché erano la maggior parte analfabeti, anche quelli che avevano frequentato la sua scuola. A un tratto, maestro Manca, che aveva già 2 bicchieri di vino in corpo e temeva le allucinazioni, vide avanzare dal fondo del corso un carro sardo tutto infiorato, trainato da 2 enormi bovi con corone di fiori attorno al collo. Doveva essere il carro di Buziuntu, perché aveva il giogo più grande di tutta Seona, e infatti egli procedeva al fianco col pungolo infiocchettato. Maestro Manca richiamò l'attenzione di Robertino Caramelli, che aveva cominciato l'eterna partita a 3-7 con Bartolino e Boelle, e già litigavano, e tutti volsero gli occhi verso il ponte di ferro. «Sant'Isidoro viene in anticipo quest'anno», disse maestro Manca, suscitando le risate. E infatti, dopo il carro di Buziunto, che era pieno di gente col costume della festa, avanzava il carro di Torroneddu, anch'esso tutto pavesato. Poi venne quello di zio Seddone, che era vecchio ma ancora animoso. Poi quello di Pedi Tortu, che zoppicava solennemente. Poi quello di Palimodde, che era guercio. Poi tutti gli altri, con tutta sé una sopra. E li seguiva un codazzo di bambini scalzi che gridavano «Viva Don Ricciotti!». La strana processione passò davanti al caffè, lasciando sul corso le odorose tracce dei buoi. Tutti allibivano. Bartolino, che era continentale, sebbene sardizzato, lanciò il primo insulto. «Coglioni!». Aveva riconosciuto, tra il gregge, alcuni suoi giornalieri, ai quali non faceva mai mancare un sigaro con la paga, e il suo urlo diede l'avvio al coro degli sberleffi e delle pernacchie. «Buffoni!», «Bambini», «Gonzi», gridavano, e qualcuno li apostrofava «Seonesi» con uno sghignazzo. I giovinastri del libero pensiero, per contrasto, si misero ad applaudire e fu un miracolo che non saltassero per aria i tavolini. Nella vicina farmacia i signori si erano ritirati nell'interno per non vedere. I seonesi andavano avanti sereni, sfilarono di fronte al magazzino di Don Ricciotti, che era il più sbalordito di tutti, e in fondo alla piazzetta si fermarono e scesero dai carri. Perché si associavano nessuno lo sapeva, ma non chiedeva neppure di sapere. Erano associati in un'arcana speranza che il maestro custodiva nel tabernacolo del suo cuore. A uno avanzavano verso il tavolino di Don Ricciotti, che salutava tutti con il nome o col nomignolo, perché il soprannome non era considerato un'offesa, e là, su quel libro, tracciavano come potevano il segno di croce. Molti mettevano sul tavolo una lira, come facevano in chiesa. «Sono dei bambini», pensava Don Ricciotti, «ma io li farò diventare uomini». Quando alla fine fu pregato di uscire per vedere una cosa e gli fu mostrato il labaro con la scritta dorata, si commosse e tuffò il viso nella stoffa per nascondere il suo turbamento. Sentì allora che doveva parlare, dire in pubblico le cose che tante volte aveva sussurrato nelle case e sul sagrato di Seona, e montato sul tavolino che aveva portato di fuori, così si espresse. La notizia che quel maestrucolo faceva un discorso si sparse come un fulmine per tutta Nuoro, e da tutte le parti fu un accorrere affannato di gente di ogni razza. I figli di Don Sebastiano furono tra i primi, perché la loro casa non era lontana. «Popolo di Nuoro, miei fratelli», egli disse, e bastò sentire quella prima apostrofe per capire che era un grande oratore, onde un immenso applauso gli rispose. «Ascendi il monte guardando il tuo sole». «Sì, quel monte che non è più nostro e che fino a ieri avete asceso guardando la terra curvi nella fatica, da oggi voi lo ascenderete a testa alta, perché non siete più i contadini abbandonati di Seona o i servi pastori di San Pietro. Coi giochi infiorati voi siete venuti anticipando Sant'Isidoro», era la stessa idea che per Ischerno aveva espresso Maestro Manca, «a fondare la vostra associazione che vi libererà per sempre dalla schiavitù». Gli applausi salirono al cielo. «Sì, perché voi siete stati fino ad oggi schiavi e non ve ne siete accorti. Non è vero che la schiavitù è stata abolita. Chi non possiede beni non è libero, non è nemmeno un uomo, è un bracciante o un giornaliero. Questo è il nome che vi danno». I contadini di Seona ascoltavano quella voce tonante che riempiva tutta la contrada. Essi non sapevano di essere schiavi e nemmeno che cos'era la schiavitù. Perciò restavano attoniti. Don Ricciotti intuì che bisognava andar cauti e soprattutto essere chiari con quei bambocci. «Noi, associandoci nella povertà, vogliamo essere uomini. E lo saremo, senza far male a nessuno. Vogliamo che le gocce di sudore della nostra fronte cadano sul terreno nostro, e a questo scopo io vi condurrò fino alla vittoria. Peditortu, Palimod, Buziuntu, voi tutti, fratelli e sorelle, avete tracciato sul primo registro dell'associazione un segno di croce. Questo segno è un simbolo, e la croce vi renderà in breve tempo padroni del vostro destino. Seguitemi, raggiungeremo insieme la cima del monte illuminata dal sole. E baciò la bandiera. Si levò allora un urlo immenso dal fondo della piazza, ma non erano i contadini di Seuna. Erano i figli di Don Sebastiano, di Don Pasqualino e degli altri borghesi di Nuoro che applaudivano freneticamente il tribuno. In quei giorni non si parlava d'altro. Don Sebastiano, a tavola, masticava il brodo, come egli diceva ai figli quando erano lenti nel mangiare, e i pranzi di famiglia diventavano sempre più cupi. Tutto egli avrebbe immaginato, ma non che quel farabutto di Ricciotti Bellisai avrebbe trovato credito nella sua famiglia. Finalmente un giorno sbottò, come parlando tra sé. «Siamo a questo punto che un degenerato viene a turbare la tranquillità del paese con la politica». Poi aggiunse che non era giusto dire degenerato, perché Ricciotti era figlio di suo padre. Si accese una discussione nella quale si arrivò persino a mettere in dubbio la legittimità del possesso di Lorenetto, al che Don Sebastiano si alzò, lasciato a mezzo il piatto del bollito, e uscì, sbattendo la porta. Donna Vincenza non aveva aperto bocca. Seguiva un'altra via di pensieri. In questo atteggiarsi dei figli in favore dei poveri vedeva un altro segno della loro incapacità di vivere, e si chiudeva nei suoi tristi presagi. Non che i poveri non dovessero essere aiutati, ma era la debolezza del carattere, la incapacità a resistere alle persone che la spaventava. Ricciotti era certamente un mascalzone, perché ella conosceva bene suo padre e sapeva tutte le storie, ma era un uomo forte, sapeva parlare, e questo le dava angoscia per i suoi figli, per tutti, ma specialmente quel Ludovico, delicato di salute e così sentenzioso nel parlare. L'importanza di Loreneddu stava qui, non in quelle quattro mura che lei non aveva mai visto o ricordava appena come in un sogno, che i figli erano pronti alla rinuncia per quattro parole che avevano sentito. Già c'era il maggiore, Giovanni, che diventava ogni giorno più cupo, sfuggiva a tutti, era sempre in lite coi fratelli che gli davano la baia. Che cosa sarebbe avvenuto? Ma il dissidio nelle famiglie era generale, e poco mancava che il movimento di Seuna non diventasse il movimento dei figli dei ricchi, che si iscrivevano in massa all'associazione, non senza un certo turbamento del maestro. Questi continuava a tenere discorsi e ogni volta era un nuovo successo. Anche al caffè non sapevano più cosa pensare e cominciavano a guardarlo con una certa preoccupata ammirazione, tanto più che i giovinastri delle cornacchie, aumentati di numero, si erano ormai schierati dalla sua parte e se lo mettevano in mezzo. La confusione era al colmo quando arrivò la notizia che a Roma avevano sciolto le camere e avevano bandito per il 23 di novembre le nuove elezioni. Tutti rimasero col fiato sospeso. Don Ricciotti sentì che il suo quarto d'ora era giunto. Al caffè giuravano che egli non avrebbe avuto il coraggio di presentarsi candidato, non solo contro Paolo Masala, ma contro quegli eterni trombati che erano l'avvocato Orrù e l'avvocato Corda. Il parroco, che aveva, come ricordate, il mandato da tutti i parenti di Orune e di Olsai di sostenere la candidatura del nipote dottor Porcu, il primo candidato cattolico della Sardegna, malediceva dal fondo della sua canonica questo maestrucolo che era venuto a sconvolgergli i piani. Don Ricciotti raddoppiava le sue visite a Seona, sondava i suoi fedeli che aspettavano la divisione del Prato. Ma aveva calcolato il suo rischio e aveva concluso che se avesse perduto sarebbe stata la sua fine. Forse conveniva fare un ultimo tentativo. Era notte alta, una notte di mezzo inverno, come ne viene a Nuoro al finire dell'estate, quando si rompono le arie e la pioggia devasta le campagne. Le strade erano deserte e i primi banchi di nebbia oscuravano la città. Don Ricciotti, che aveva passato 4 notti insonni, si avvicinò al portoncino di Don Sebastiano e sollevò l'anello di ottone. Stette un poco con la mano sospesa, poi lasciò che il destino si compisse. Un suono, che gli parve funebre, rintronò nell'immenso atrio della casa. «Chi è?» disse una voce di donna. «Amici», rispose. Si aperse una fessura e la serva riconobbe la figura tozza e cupa del maestro. «Aspetti un momento», e col cuore in tumulto entrò nella stanza da pranzo, dove il padrone leggeva il giornale tra i figli che studiavano e donna Vincenza nel suo angolo. «C'è Don Ricciotti e vuole parlare col padrone». Vi fu un momento di panico, ma Don Sebastiano, che non conosceva la paura, disse subito: «Fallo entrare e poi mandalo nello studio, dove io salgo subito». Rifiutò la presenza dei figli, andò nella camera da letto che era contigua allo studio, trasse dal cassetto la pistola che non aveva più toccato dai tempi in cui andava a cavallo per il circondario a stipulare gli atti, tolse la sicura e la nascose sulla scrivania, sotto un foglio di carta bollata. Quindi disse: «Avanti». Don Ricciotti entrò col suo corpo flaccido e Don Sebastiano capì subito che non correva nessun pericolo. «Dunque?» «Sebastiano», egli disse, «noi ci conosciamo da molto tempo. Siamo stati insieme ragazzi». «È vero. Tu hai visto che cosa è capitato. Io non sono che un maestro elementare, ma in pochi mesi sono riuscito a far venire ai miei piedi tutto a Nuoro». «Ho visto. Tu sai parlare bene e promettere meglio». Don Ricciotti non raccolse l'allusione e proseguì: «Ora io mi presento deputato. Ho quasi 3.000 iscritti all'associazione e la vittoria è sicura. Ebbene, vuoi che lo dica? Se io divento deputato, avrete tutti a pentirvene. Tu non sai di che cosa io sono capace». «Ebbene?» «Ebbene, io non ho voglia di combattere, che se ne dica. Sono vecchio e stanco. E dei seonesi non me ne importa nulla. Sono venuto per quello che tu sai. Ancora una volta, io ti chiedo se vuoi restituirmi la casa di Loreneddu, prima che io me la riprenda con la forza». Don Sebastiano guardò il foglio di carta bollata che nascondeva la pistola e decise di dargli corda. «Senti», disse, «se tu mi dai una ragione perché io te la debba rendere, sono disposto a contentarti». Gli scrosci di pioggia battevano contro i vetri, ma la luce della lampada a petrolio investiva la faccia bianca del maestro, che ne restava come rischiarata. «Tu hai comprato all'asta quella casa», rispose. «Ebbene?» «Ebbene, questo vuol dire che mio padre non te l'ha venduta. L'hai comprata senza la sua volontà. È come se l'avessi rubata». «Tu sei pazzo». «No, non sono pazzo. Vedi, mio padre si è giocato alle carte Isporosile e oggi quel terreno che vale 1.000.000 è nelle mani di Giovanni Maria Musiu. Ma io a lui non chiedo nulla, peggio per mio padre che se l'è barattato. Il tuo caso è diverso». «Perché è diverso?» «Tuo padre era pieno di debiti con la banca e nessuno voleva comprare la casa messa all'incanto. Venne piangendo da me perché mi presentassi alla gara, altrimenti gli avrebbero portato via anche la camicia». «Lo so bene. Ed è questo che ti condanna. Se nessuno offriva, la casa restava a lui. «Tu sei pazzo come tuo padre», stava per dire Don Sebastiano. Ma si fermò un momento. Nella pazzia di quell'uomo c'era un fondo di verità al quale egli, notaio, che aveva presenziato a tante aste, non aveva pensato. Il debitore che non paga è soggetto alla espropriazione dei beni. Questo era scritto nel codice che gli stava davanti, una vecchia edizione formato diamante con le pagine chiazzate di giallo che egli non apriva mai perché non ne aveva bisogno. Ed era più che giusto. Era il fondamento stesso del vivere. Ma era anche vero che il debitore non c'entrava per nulla. I suoi beni ritornavano, per così dire, alla comunità dalla quale erano usciti, che provvedeva alla vendita. Sotto questo aspetto, ogni esproprio era un furto, e per questo i compratori all'asta erano guardati di malocchio. Una persona amica non partecipava alle gare, e anche egli aveva sempre rispettato questo pregiudizio. Uno dei motivi di dissenso con la moglie era anche questo. Il silenzio di Don Sebastiano aveva acceso come una fiammella di speranza nell'animo torvo del maestro. «Ebbene?» chiese. Il viso di Don Sebastiano riacquistò la sua certezza. «Tu potresti avere qualche ragione, alla lontana», rispose. «Ma su quella stessa sedia, dove stai seduto tu, e a questa stessa ora, tuo padre mi scongiurò di concorrere, come ti ho detto. Io non volevo, e per contentarlo dovetti indebitarmi al suo posto. Questo avveniva 20 anni fa. Tuo padre è ancora vivo, perché non viene a chiedermelo lui?» «Mio padre è un imbecille», rispose. «Questa faccenda dobbiamo sbrigarcela tra noi». «Per me è già sbrigata», disse Don Sebastiano, guardando come distratto la carta bollata. «È l'ultima parola?» «L'ultima». «Ti farò piangere lacrime di sangue», disse alzandosi il maestro, e uscì nella notte. Toni Servillo ha letto Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.